ci siamo, 23:49, minuti primi, 49:50, dai. Come ti avevo promesso, ho detto. 22:30 alla fine diventano 23:50, dai. Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, dicevamo www.ondarossa.info, il sito della radio. Sito della radio su cui troverete i podcast e le cose salienti che la radio produce. Trasmissioni, corrispondenze, rassegne stampa. È tutto quel resto che serve, che è importante. Trovate pure sul sito della radio andando sul tasto sostieni una paginetta che vi indica qual è la modalità per sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Voi collaborate da tanti anni, voi tutte e tutte con la radio. Lo diciamo sovente, non è solamente il contributo economico quello che è determinante per il funzionamento per la radio, perché è importante che voi con le vostre telefonate, con i vostri contatti, con le vostre proposte, anche proteste, alle volte lo fate anche. E va bene tutto, non ci offendiamo di nulla. E quindi con questo che costruiamo Radio Onda Rossa, però essenziale. E anche questo determinante che ci sosteniate anche economicamente, quindi andate appunto sul sito, su Sostieni, e trovate come si fa. Noi vi rammentiamo al solito perché ci piace farlo. Le due modalità più vecchie per sostenere Radio Onda Rossa: 61 80 40 01, il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 560085, Roma San Lollo. E con questo vi abbiamo anche spiegato la seconda modalità, cioè salire al primo piano di Via dei Volsci 56 e venirci a portare con la mano sul portafoglio la vil pecunia. E magari anche l'occasione per farci una chiacchierata. A venire a vedere che meraviglia di mixer nuovo c'è qua negli studi della radio. Allora, stasera non l'avevamo annunciato, sì, l'avevamo annunciato la scorsa puntata, fatta da quel luogo che si chiama Remoto. Che avremmo avuto ospiti, e ospiti infatti abbiamo, si tratta di, e noi ci piace chiamarlo così, Ciccio Stefano Tarquini, che già la prima volta che viene quest'anno, perché sei venuto l'altro anno verso, sì, ancora una volta, non soltanto, insomma, poi sì, qualche cosa manderemo, dai. Musicista, di musico, ma di nuovo in veste di scrittore, di narratore, di racconti, in questo caso un volumetto che è uscito da qualche settimana, credo, insomma da qualche mese, e che andremo a presentare questa sera. Nel frattempo noi vi ricordiamo i modi per comunicare per la radio: ondarossa@ondarossa.info, ovviamente la mail della redazione di Radio Onda Rossa, Poi ci stanno tutti i social che non li conosciamo, non li sappiamo, comunque sono quelli, insomma. Più o meno la radio ci sta. 25 o'clock, 25 scritto a numero. 25 o'clock, chiocciolandorossa.info. Per disturbare noi altri. 06 491 750. Stasera ci stiamo, volendo potete anche chiamare. Allora ci siamo, ciao Ciccio, ciao Stefano, come ti trovi, come andiamo? Benissimo, grazie. E quindi siamo di ritorno qui negli studi di Onda Rossa. Vabbè, per chi non lo conosce, chi non ha ascoltato le tante puntate precedenti in cui è stato comunque ospite a vario titolo, a vario genere, Ciccio insomma è una vecchia conoscenza di queste parti, cantante, chitarrista all'inizio, poi cantante e basta, come si dice, vocalizzatore in qualche maniera, paroliere tipo Mogol. Anche paroliere, sì, tutto anche paroliere, dai, dei palcoscenici all'Eon, 9 e tanti anni, poi tanti altri progetti musicali paralleli di breve. Palcoscenici sicuramente un po' al centro, il progetto duraturo. Me lo porta avanti da adolescenza, quindi sì, stavamo dicendo che dovevamo fra poco andremo in pensione. Andremo in pensione, ma ci avremo pure i 20 anni di palcoscenico, insomma, fra un pochino, un paio d'annetti preparati, cioè preparatevi voi, noi insomma aspettiamo, ma noi siamo sempre pronti. E vabbè, proveniente da, con orgoglio penso, no? Dalla periferia, da Guidonia, sì, voglia, voglia. Ultimamente sempre un'altra grande passione, vecchia passione insomma dei tuoi studi, comunque la scrittura nelle varie forme e modi. Nella scorsa puntata in cui eri presente abbiamo presentato I Giorni Furiosi, che era un opuscolo, un libricino con raccolta di due poesie scritte nel corso di tanto tempo e poi pubblicate. E invece stavolta è venuta proprio dall'editore poi la spinta, no? Per continuare. Sì, cioè, questa è stata un'esperienza, diciamo, che auguro un po' a tutti quelli che scrivono, cioè mandi le tue cose alle case editrici e qualcuno risponde anche entusiasta, quindi ben venga. All'inizio probabilmente non ero neanche troppo convinto dei racconti, perché io ho sempre scritto un po' più concentrato, un po' più, cioè la narrativa è molto diversa dalla poesia, no? Anche se sono racconti brevi, comunque avremo modo di parlarne dopo. E probabilmente è stata una proposta che è arrivata in un momento particolare della mia vita in cui mi ha proprio risollevato il morale, le sorti, no, lo dico proprio in tranquillità. E niente, quindi volume 1, Il Requiete, volume 1, 15 racconti. 15 racconti. Quindi vogliamo, il volume 2 uscirà. Vogliamo cominciare, visto che poi pure sui social un po' l'hai così spinta o spiegata, il Requiete che cosa vuol dire? Partiamo da sì, il Requiete è un attributo, più, cioè, ovviamente è un attributo plurale femminile riferito a qualsiasi qualsiasi entità femminile. Certo. Lo intendo invece come sostantivo maschile singolare accostato alla quiete, parallelo o contrario o comunque una cosa diversa ma vicina alla quiete. Siccome non è stato un periodo molto tranquillo, insomma, che ho vissuto in questi ultimi anni, questo mi sembrava un titolo abbastanza consono. Ma è anche consono, secondo me, ha poi lo stile, poi andremo ovviamente, sei venuto qui per leggere. Ah sì, qualcosa. Leggeremo, sì. Capirete che effettivamente, diciamo, c'è tutto fuorché la quiete. Diciamo, sì, c'è una rabbietta che va un po', no? Va un po' dappertutto, però diciamo che me la porto dietro da, insomma, anche da sempre, quindi ben venga. Uscito, abbiamo, siamo stati un po' imprecisi prima. Allora è uscito a fine novembre, quindi ha 2 mesi, sì. È ancora neonato praticamente, con una casa editrice che si chiama Another Coffee Stories di Milano, che saluto tutto lo staff, tra Giada e Marta e insomma tutta la scena romana, perché loro sono milanesi, ma c'è una scena romana, però insomma è molto attiva e sta facendo tante cose interessanti e poi comunque mi ha dato voce, quindi l'amo alla follia. E niente, sono la parte un po' hardcore della quello sì, cioè sono la parte un po' diversa, un po' maledetta, sì, delle pubblicazioni loro, però cioè, mi piace confrontarmi, sono tutti molto giovani, quindi è bellissimo sentirsi partecipe ancora di un qualcosa. Vabbè, poi okay, i primi a essere entusiasti sono stati loro, a quanto ho capito. Sì, no, voglia. Quindi insomma parti così. Scritti queste 15 tracce, in che arco di tempo? Beh, in una tracce, vedi, perché la deformazione questo è bellissimo. Fondamentalmente, come ben sai, qualcuno è diventato anche canzone. È una forbice temporale enorme, perché alcuni sono refresciati ma nati addirittura 20 anni fa, quindi mentre le poesie era stato un tempo più contenuto, invece questa è erano scarabocchi molto vecchi, insomma. Sì anche scarabocchi vecchi, sì, una 20 d'anni fa, insomma, qualcuno è molto vecchio, però diciamo che gli ho dato una corretta, gli ho dato una riletta e dai. Io invece avevo preparato un CD che erano Enter, vabbè, Matt Gustafsson, che è un jazzista, sì, che fanno delle cose assurde, insomma, Fire Orchestra si chiama, e ho detto, gli mettiamo questa roba qui, è una cosa irrequieta effettivamente. Va benissimo. Andava benissimo. E non te lo sei perso? No, ho portato la copertina, ma il disco l'ho lasciato nel vettore a casa. A posto. Quindi come base, qualcosa ci inventeremo. Hai pensato a come partire? Per la prima lettura, poi mano a mano, insomma, andremo a dispiegare la trasmissione. Ma allora io direi che, visto il nostro amore comune per la mitica terra sarda, iniziamo con dalla K. Sardegna. Iniziamo con K, e quindi ci mettiamo sotto Janzeneghe. No. ci abbiamo un'altra formazione, Juno 44, che ha rifatto uscire, tra l'altro, come l'ha fatto tu? Ha ripreso una cosa di 15 anni fa, okay, e l'ha risuonata. Cioè, le cose di 15 anni fa, okay, e l'hanno risuonate. Il primo post rock durante 15 anni fa. E quindi mandiamo loro come base di K. Vai. La prima volta che ho sentito K gridare eravamo in Sardegna. Valeria aveva un appartamento al secondo piano di un casolare abbastanza datato. A detta dei ragazzi di là sarebbe caduto sicuramente prima il Colosseo, nonostante la sua posizione fronte porto l'avesse esposto a tutti gli agenti erosivi che vi vengono in mente, i vecchi rancori, salsedine, poca ospitalità. Dormivamo in camere poco distanti tra loro, K e Valeria su un letto matrimoniale nella stanza dei nonni. Appena prima di morire avevano fatto rimbiancare la casa alla buona, accatastando tutte foto di una vita dentro cornici a giorno poggiate momentaneamente dietro la porta. Nella camera per gli ospiti, in un letto a castello che scricchiolava appena ci muovevamo, Fabio ed io. Lui vertiginoso, di buone maniere, logorroico, al piano terra. Al secondo io che stendendo il braccio il più possibile verso l'alto come a farmi uscire la spalla, toccavo quasi il soffitto. Russare era sicuramente un buon diversivo per Fabio, lo faceva in maniera eccentrica, sempre diversa. Ultrasuoni, lunghe pause di tosse, citofonate, ritmi sempre sincopati, sembrava il batterista di un gruppo free jazz. Maschera da coniglio con le orecchie pelose che lo facevano super sudare, anche se con le finestre spalancate la sera si respirava. Ed io potevo vedere le stelle in lontananza cercando di ricordare i nomi delle costellazioni. Non so quante volte in quella settimana ho pensato di ucciderlo, stringendo la mano destra a pugno, pronto a colpirlo, mimando jab e ganci. Mi sporgevo il più possibile di sotto con la mia agilità da bue marino, fino a toccargli la punta del naso, ma poi mi ritiravo su, soffocandomi sotto il cuscino sottile con cui cercavo almeno di coprire entrambe le orecchie, aspettando di dormire. Il caldo di quella notte di luglio aveva ormai oltrepassato balconi e pareti, e mi era piombato dentro il cervello, con il quale avevo serie difficoltà a focalizzare una connessione. Somigliava ad una lucertola infilzata con uno spillone rovente in un rito voodoo, al toro spaesato in alto a sinistra nella guernica di Picasso, ai ladri attoniti crocifissi insieme a Gesù Cristo sul Golgota, a una vecchia ruota di scorta saltata via da un bagagliaio che rotola verso il mare di fronte. Fabio continuava a russare e così mi venne in mente il metodo con cui mia madre provava a far smettere mio padre, fischiettare, imitando una mezza specie di allodola, ma niente da fare, non funzionava neppure quello. Ero esausto, smanioso. Allora tirai un colpo di tallone che pareva un calcio al contrario, alzando la gamba a 90 gradi e sbattendola giù sul materasso, inghiottita dalle lenzuola. «Porca troia!» sbraitò, continuando con tono impastato. «Ma che cazzo? Ma vaffanculo! Ma che è stato? Pure!» Cercai di trattenere il più possibile le risate tra i denti, girandomi verso il muro come un provetto Tutankhamon, assorto in un sonno profondo, e quando fece capolino e mi chiamò, non risposi. Mugugnò un altro paio di bestemmie e ricadde morto con la testa sul cuscino, giallo di sudore. In quel momento Kappa gridò. Kappa grida quasi tutte le notti nel sonno, e visto che di solito dormiamo insieme, io ecco l'accarezzo, le chiedo come sta, anche se non risponde mai, si calma, si riaddormenta, aveva detto Valeria prima di partire. Loro dividevano una stanza in un appartamento con altri studenti a San Lorenzo, sopra la piazza del mercato, e io mi ci fermavo quando perdevo l'ultimo treno o l'ultimo autobus. Feci uno scatto involontario con le spalle, sbattendo la scaletta del letto a castello, che uscì dal binario e cadde ferosa sul pavimento di marmittoni, svegliando tutta la costa orientale dell'isola. Fabio si trovò seduto sulla sua parte di letto, lo guardai da sopra che ero ancora sdraiato, e lui ricambiò il mio sguardo da sotto, con una faccia da Linda Blair nella scena finale dell'Esorcista. Seguì qualche secondo di silenzio, non più di tre, e bestemmiamo all'unisono tutta la Santissima Trinità e oltre. Non sapevo se alzarmi e raccogliere la scaletta, non sapevo se chiedere se di là fosse tutto a posto, non sapevo niente di preciso in quel momento, così mi alzai per andare a pisciare. Era K, vero? È stata K a strillare, giusto? Chiese, asciugandosi la faccia di sbadigli di troppo. Io di certo no, dissi, cercando anch'io di staccarmi il cuscino dalla guancia. Passai davanti alla loro camera ed era tutto buio. Valeria stava sussurrando qualcosa e decisi che era tutto a posto. Il sonno c'era passato del tutto e guardammo la TV fino all'alba, per lo più Walker Texas Ranger, pubblicità di telefoni erotici e prodotti fasulli che assicuravano un'erezione duratura. Mi stappai una birra dalla cassa che avevo comprato e sistemato in frigorifero il pomeriggio prima, occupando tutto il piano inferiore. Quella notte Fabio mi raccontò tutti i particolari scabrosi della sua ultima storia d'amore e che quando saremmo tornati a Guidonia avrebbe cominciato a lavorare da Severini, uno che faceva allestimenti di fiere, mostre d'arte di ogni genere, montaggio palchi per concerti. Parlammo fino a non aver più niente da dire, fino al nascere del giorno. Mi alzai di nuovo per pisciare, passai davanti alla stanza delle ragazze per andare in bagno, mentre i primi raggi di sole sgomitavano dalle fessure della persiana e facevano una minima luce. di fronte allo specchio con indosso solo un paio di mutandine bianche come la sua pelle, che proprio non ne voleva sapere di abbronzarsi. Caterina, col suo piccolo seno perfetto all'insù, coperto solo dalle sue tiepide mani, accennava un sorriso e un timido passo di danza. Allora, siamo tornati in onda e con la lettura del primo racconto. Racconti così, abbastanza brevi, 4-5 pagine, in sì. cui in qualche misura devi un po' racchiudere un mondo, un piccolo mondo, una descrizione dei personaggi, entrare, cioè riuscire a delineare poi alla fine con poche pennellate. Di più sicuramente che con la poesia, anche perché si sviluppa su altri livelli, diciamo, la narrativa. Beh, raccontaci un po'. Beh, sicuramente il racconto ha altre esigenze, cioè nel senso, nel racconto diciamo che più cose dici è meglio è. In quello spazio piccolo che tu ti decidi, no? Tu decidi questo racconto. Vita e morte in una, due, tre pagine, poi non è che lo decidi prima, però quando comunque metti punto devi aver detto tutto. Nella poesia no, nella poesia quando metti punto apri uno, hai appena cominciato, diciamo. Certo, dicevamo prima che quello la poesia... è quello che viene dopo, è quello che suscita nel lettore la poesia in realtà, e quindi c'è un apri un ventaglio di emozioni che è infinito, e anche perché cos'è importante? E anche indefinito, forse. Sì, cioè cos'è importante nella poesia? Comunicare, suscitare una reazione, un qualsiasi cosa. Nel racconto, ecco che ti ho raccontato, c'è una ragazza che strilla di notte, e quindi che succede? Succede che strilla, non strilla, che perché non lo fa. Allora, il discorso è questo: o sei in grado in quello spazio di dire talmente tante cose. Che alla fine magari quelle pagine poi non ti bastano più, no? Però lo fai a un livello forse più terreno, più concreto, più calpestabile che nella poesia. Nella poesia non serve, cioè se una frase la tronchi, l'hai troncata, punto, basta, cioè l'hai fatta così, è il lettore che continua. Nel racconto ecco, per esempio, siccome alcuni racconti sono molto vecchi, sto lavorando agli spin-off dei racconti, perché comunque sia li sento incompleti, e l'incompletezza comunque sia nel suo piccolo è un po' poetica, no? Cioè dire il racconto tutto, però forse rispetto a una forma dovrebbe. Estesa, no, però dico rispetto sì. alla forma estesa del romanzo, insomma, che ci auguriamo un giorno sarai in grado di visto che procedi più che altro per passi successivi, cioè a voler allungarle, voler dare Sicuramente mi interessa come discorso, cioè il romanzo è un racconto lungo, cioè non è che è un racconto lungo, però poi, cioè, se io scrivo poi lì appunto sbizzarrirti, cioè con l'approfondimento dei personaggi, ma secondo me qui i personaggi sono delle fotografie tutto sommato, bravissimo, sono istantanei, racconti istantanei, cioè il discorso del romanzo è che, cioè, se tu stai davanti al computer e scrivi un racconto al giorno e lì scrivi due pagine al giorno di un romanzo, però secondo me in quel momento lì tu, quando ti siedi davanti al computer, già sai che cosa dovrei andare a sviluppare, cioè nel senso, poi che scrivendo vengono altre cose, sì, divaghi, sì, citazionismo, sì, flashback, prequel, no, come abbiamo detto, futuro, passato, sì, però la trama sul romanzo, cioè una sceneggiatura, perlomeno un soggetto che devi seguire in qualche modo, poi sta allo scrittore, a chi scrive l'impulso per mettersi invece a scrivere un racconto viene proprio da questo qui, insomma, mi sembra scontato per chi ti conosce, almeno insomma, sì, per quanto ti conosco, viene da fatti del vissuto. Chiaramente c'è un equilibrio giusto, qua è ancora un equilibrio giusto tra vissuto e finzione. Certo. E alcuni, bravo, per chi mi conosce sa quello che è vero e sa quello che non è vero, però insomma, cioè, non penso di aver esagerato più di tanto. Ci sono delle note biografiche dell'inventare, sono delle note biografiche, tipo, che ne so, su i 15 racconti, su 14, mo non lo so, parli di qualcuno che c'ha problemi con la macchina. Beh, sì, diciamo che ci ho messo del vissuto, insomma, è un problema che mi porto dietro da sempre, da almeno 10 anni, quindi chiaramente lo riverso un po' nei racconti, cioè c'è proprio un personaggio, e sia in Colazioni Salate che Meglio Chiamarsi Elvira, che insomma c'ha gli stessi problemi con la guida in stato d'ebbrezza e analisi, commissioni medico-legali, avvocati, Kafkiana, cioè. Cioè avvocati, processi, lavori socialmente utili, cioè il lavoro, cioè proprio, guarda, fermate proprio, un vortice al contrario in cui se entri è difficile uscirne. E invece qual è la parte della finzione? Cioè, partendo da uno spunto, da un accaduto, da qualcosa, poi. Ma onestamente poco. Onestamente poco, nel senso. Onestamente poco, perché non succede, non vengono mai, non arrivano mai gli alieni, non ci sono mai visioni mistiche, quindi forse in qualche episodio di droga, ma non mi ricordo se sono su questi o su quegli altri, però magari c'è stata qualcosa che non è successa in quella situazione, che magari verrà successa in altre, cioè c'è un, no? È come quando levi una frasetta da una parte, la metti da un'altra perché ci sta meglio, però insomma lavori tutte un po' e due sono vere, col messaggio, no, della realtà, diciamo, racconto. Beh, sì, di giocare, sì, un po', guarda, inventato proprio di sana pianta non lo so, dovremmo rileggere, cioè per esempio così do alcune note, essenzialmente si tratta di racconti fatti o in prima persona o in terza persona, cioè passi, poi casomai mi spiegherai anche la differenza, o in prima persona o in terza persona, che riguardano avvenimenti, sì, diversi, ma insomma, io... tra l'altro io così facendo una gaffe, no? Così un misunderstanding, avevo capito quasi che fossero libri per, cioè racconti per ragazzi, no? E in effetti ci stanno, cioè c'è pure una parte secondo me educativa, poi tutto sommato. Beh, grazie che ce l'hai vista. No, vabbè, se, no, altro, se non altro perché la nota sulla poesia che dicevamo la scorsa volta, e cioè sul fatto della sincerità, è assolutamente secondo me riproposta qua, cioè anche qui non è che c'è la cosa che si nota è l'assoluta, cioè così nel contesto generale dei racconti parliamo di un ambiente, di un milieu che è quello della periferia, certo. È quello di gente sbagliata, sì. È quello di gente certo. Impicciata, di sconfitti, sì. Mi piaceva dire, ma non perdenti. Cioè, questo è bellissimo, questo è di sfigati, sì, ma non di sfigati, non però, troppo, però ma, anche ma cioè, la vita ma continua, con una certa verve. Quella è la loro vita. Vabbè, quella la cosa, no? Cioè, gli eventi negativi che se li sai gestire. Stai sempre un passo avanti, comunque è sempre meglio, sì. Non farsi travolgere troppo, perché poi cioè, le cose negative in questo è educativo, nel senso che non è che vai a raccontare balle, vedi? Racconti come questo è bellissimo, come la vita, racconti come la vita, i personaggi, vedi, sono andando a parlare insomma con le persone, mo noi ci conosciamo da 20 anni, vabbè, però ci stanno anche magari persone da cui vai che non te conoscono, certo. E magari questa cosa esce uguale, no? Certo. E questo è bello, perché magari io quando sto lì non faccio tanto caso, ma che sto a fare, una cosa educativa o diseducativa, oppure ma che sto a scrivere, una cosa troppo io scrivo, basta, giusto, cioè l'unica cosa che a me non interessa assolutamente il racconto tradizionale. Apri le virgolette, ciao, disse lui. Mm-hmm. Chiudi le virgolette, ciao, rispondi. A me quelle cose, quelle dinamiche là dei racconti, non mi piacciono. L'io narratore proprio estremo non mi piace. E quindi cerco un po', insomma, di mischiare un po' le carte. Ma una cosa che proprio odio proprio è il lieto fine. Cioè, è proprio una cosa che non riesco a. Non lo so, cioè, probabilmente il 90% degli scrittori scrivono con lieto fine, e quindi ce ne sono talmente tanti. Però non è una cosa che serve. C'è un racconto, forse, l'unico che spicca in tutti questi. Anche questo qua su K, insomma, tutto sommato non ha un lieto fine, ma non ha nemmeno un brutto fine. Sì. Non è nemmeno una roba drammatica. Il finale è importantissimo, perché il finale su un racconto poi così, certo, breve ti deve dare il senso. T'ho capito. Quindi io leggerei quest'altra roba imperfetto. Qua. Il bagaglio imperfetto. Senti, che mettiamo? No, io dicevo più che. Sì, va bene. Perché più o meno tutte. No, quella che mi ha dato, ti dicevo, che mi ci sono conosciuto. No, che mi sono conosciuto era quella sulla Caritas. Ah, ok. Maradona, però, ma la vuoi leggere? Non mi sento. Non ti sento. Sì, aspetta, no, prima l'avevo sparato, poi in realtà. No, perché l'avevi detto? Se, no, ma sai che quello è il problema mio, che sono ciecato, ho paura che. Io non ci sento, quindi in due famo uno. Va bene, rimettiamo giù un fortifone. Ah, sì, voglia, intanto lo trovo. Intanto tu trovi. Allora, faccio prima la. Mettersi in lista per andare alla Caritas era un buon motivo per saltare la scuola. Stavamo soffocando e risparmiare un giorno di galera sembrava cosa buona e giusta, sia per me che per il Vacca. A Roma faceva davvero caldo, Vacca lo sapeva bene, me aveva coinvolto. Non mi dire che oggi per la prima volta hai studiato e vuoi farti interrogare, no, per carità, scherzi. Per la stessa ragione il mese dopo ci eravamo fatti succhiare mezzo litro di sangue sul Lungotevere. Arrivavamo alla mensa di Colle Oppio verso le 10 per essere addestrati. Ci meravigliammo, non eravamo gli unici. Ogni scuola aveva mandato qualcuno e di sicuro non i migliori elementi, noi non lo eravamo di certo. Le donne si occupano dell'accoglienza e della pulizia dei tavoli alla fine del servizio. Invece i ragazzi servono pane, acqua e riempiono i vassoi con forchette di plastica e un tovagliolo attorno. Non scordate i bicchieri di carta, non scordate l'educazione. Questa è gente che soffre. Discorso in loop, persone diverse, parole uguali, voci ultramagnetica. Prima entrano e fanno vedere la tessera, riempiono i piatti e vanno al tavolo, poi mangiano. Oggi bastoncini di pesce. Io e il Vacca avevamo già rimorchiato. Perché lo chiamano così? È così carino. No, è veramente il suo cognome. Ma dovresti vedere come mangia e soprattutto quanto caga e quanto puzza, rispondevo. Lui però poi iniziava a demolirmi. Pensa che ce l'ha talmente piccolo che quando lo tira fuori le ragazze gli fanno no grazie, non fumo. Questo secondo lui avrebbe dovuto far ridere e loro e offendere me. Poi passavamo a prendere per il culo le nostre madri. In genere funzionava con le ragazze, Vacca era comico di suo, non gli servivano certo quelle stronzate per far ridere. Per quanto riguarda me invece facevo pena e non avevo mai una lira in tasca. Ora che ci penso non ho mai capito cosa potesse piacere di me, sarà che ho gli occhi grandi e scrivo bene. Quelli erano due strappone di una scuola di colleaniere, bruttarelle, ma sufficientemente zoccole da essere perfette per noi, capelli unti, zaini pesanti e tette sproporzionate per il resto del corpo. Piacere Silvia, lei era toccata a me. Si erano messe vicino a noi per il riconoscimento, quelli cominciavano ad arrivare e io avevo già fatto le mie battute migliori, quindi mi limitavo a sorridere e ad ascoltare, perché aveva una voce tiepida ed era bello sentirla parlare. Cominciavamo anche a stufarci di questa cosa, il volontariato è una vera merda, i cattolici sono una merda. Lei rispondeva a tono e cose neanche troppo stupide. Controllano Roma e presto controlleranno l'Italia e il mondo. Hanno buone armi, carità, sensi di colpa. Controlleranno l'economia e le mode. Sanno come entrare nei cervelli vuoti, fidati, io ne conosco più di qualcuno. Era spiritosa, dai, per me era perfetta. Non troppo bella, non troppo magra. Forse era un po' un cesso, ma almeno era libera, non puzzava e non dovevo fare troppa fila per mettere una mano dentro le sue mutande. Io me la volevo scopare, lei ci stava, tutto qui. La mensa ormai si era riempita e tra zingari, neri, cinesi, poveri in genere c'era una puzza che quasi svenivo. Con la scusa di fumare andavo ogni 10 minuti a prendere una boccata d'aria di fuori. Stava andando tutto bene, Vacca era preso a versare il vino nei bicchieri di carta e tutti lo chiamavano. Silvia mi aveva seguito, niente, lei fumava ma la scusa era buona. Sotto quello spicchio di sole sembrava meno brutta, la luce entrava nella sua bocca rimbalzando nello spazietto tra i denti, il caldo tra i capelli sporchi e sotto i vestiti. A me piace guardare la bocca delle donne quando pronunciano determinate parole, seguo la lingua, la immagino sbattere sul palato e cadere velocemente giù al suo posto. Guardo in mezzo ai denti, controllo che quelli di sopra combacino con quelli di sotto, guardo anche le innumerevoli imperfezioni che hanno le labbra, tutte con un colore diverso, provo a contarle. Ci dovevamo sbrigare, ma non c'era tutta questa fretta e io poi non ce la facevo più. Parlavano tutti a voce altissima e tutte quelle lingue diverse avevano riempito la sala di rimbombi accecanti, tutti con qualcosa da dire e qualcosa da dare, neanche fosse Natale. Che poi bastava solamente limitarsi a mangiare velocemente, lavarsi i denti e via, ognuno ha le proprie vite. Era una specie di oratorio e passato il campo da calcetto c'era una discesa che portava a un magazzino di attrezzi vari e vecchie impalcature di carri di carnevale. Silvia mi spinse là sotto, io la baciai subito senza dire niente, le frugavo sotto la felpa tra le tette enormi e lei mi sbottonava e si strusciava, lo tirai fuori. No grazie, non fumo, disse, pensando che quella fosse una grande battuta. Rise a crepapelle con gli occhi illuminati anch'io, continuò a toccarmi fino a che venni tra le sue dita e sul muro. Si scrollò la mano e la mise sotto il tubo dell'acqua, passandola poi distinto sul lato dei jeans strappati. Senza sapere cosa dire, le fece un sorriso e una carezza. Lei ricambiò il sorriso. Questo è il mio numero, domani ho casa libera, se vuoi chiama. Già chiamato, pensai. Rientrati, Vacca stava litigando con un barbone. Testa di cazzo, torna per strada in mezzo alla merda, ringrazia che oggi sto in vena e non mi voglio sporcare le mani. Intanto un prete si era avvicinato per vedere cosa stesse succedendo. Pensa te, quel negro di merda mi ha tirato addosso il pane, ha fatto il pane duro, mangiatelo te. Io mi misi a ridere, lui lasciò stare. Di solito mi mettevo sempre in mezzo a chi litigava, a volte anche senza conoscere neppure i soggetti, a volte anche quando non era il caso. Insomma, la mezza sarà svuotata e siccome a quelli che servivano aspettavano gli avanzi, ci servimmo anche noi. io e Vacca ci davamo sotto i bastoncini, il pane integrale e le brocche di vino bianco annacquato. Dopo 10 minuti eravamo gonfi e ubriachi. Silvia era sparita, aveva scritto il suo numero su un biglietto che avevo cacciato in tasca. Pure l'amica era sparita, tutte e due se ne erano andate senza nemmeno salutare. Vacca uscì di corsa nel campetto e cominciò a fare finta di giocare a calcio. Io gli andavo dietro e gridavo di passarmela. Ad un certo punto alzò la sua palla immaginaria ed io, per non lasciarla andare, feci una rovesciata vera cadendo di schiena sul cemento. Rimasi sdraiato per un'ora e Vacca accanto a me. Parlando, la sbornia passava, il giorno finiva. Qualcuno di tanto in tanto si avvicinava per vedere se eravamo ancora vivi. E sì, eravamo ancora vivi, scemi, giovani. La mensa aveva chiuso da un pezzo, io mi ero scordato tutto. Che cazzo ci facevo lì e perché il Vacca aveva quella faccia e quel sorriso stupido? E perché quando guardavo dal basso tutti quegli uomini con le tanaca nere che ci fissavano e ridevano di noi? Mi ero scordato di Silvia, avevo perso il suo numero, mi ero scordato di quello che avevamo fatto, nascosti tra le scope, le macchine per tagliare l'erba, i carri di carnevale con Maradona che prende a calcio il mappamondo, era Hitler o Chaplin. Non mi ricordavo nemmeno questo, ma poi cosa importava? Dei calci ne avevamo presi comunque tanti e sicuramente più di quelli che avremmo dato. Abbiamo preso la metro a via Cavour, Vacca è scesa a Bologna e io dovevo tornare a Guidonia. Avevo un terribile mal di testa, un fiato che sembrava quello di mio nonno quando tornava ubriaco marcio. Né io né il Vacca, il giorno dopo saremmo andati a scuola. E 31 minuti primi, Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, e quelle che avete ascoltato sono era un racconto tratto da Irrequiete, il libro, l'ultimo libro di Stefano Tarquini, di racconti, di 15 racconti, 15 racconti in cui prima accennavi che in realtà c'è un proseguio già. Sì. Allora, intanto che archivio di racconti hai? Racconti? Beh, allora, il Irrequiete è fatto da volume 1 e volume 2, tutte e due composti da 15 racconti. Quindi il primo è già uscito. E questo era già previsto, insomma. Sì, il secondo uscirà nel corso dell'anno, poi vabbè, ritornerò. Forse ritornerò. E niente, sto lavorando, siccome. Ecco. Già prima avevamo un po' accennato a scendere un po' di più, no? Entrare un po' di più nei personaggi, cioè chiaramente questo proprio in particolare che ho letto, Maradona Caritas a bastoncini di pesce, cioè, è uscito su una rivista letteraria 20 anni fa e l'avevo addirittura perso e non l'ho neanche corretto più di tanto, no? Però poi alla fine queste situazioni, no? Sarebbe bello, perché adesso va di moda tantissimo lo spin-off, no? Cioè capire chi è il Vacca, capire chi è Sonia, capire che cosa è Colle Oppio, quindi si può giocare molto su queste cose. E sto lavorando su gli spin-off dei personaggi che compongono, cioè, quello questi che racconti. Prima era un appunto andare a ripescare nella raccolta dell'archivio, poi mi dirai quanti sono i racconti. Vabbè. Invece comincia a diventare un gioco un po' più complicato, allora, cioè diciamo, non comincia a prendere gusto. Sì, diciamo che però rimango sulla trilogia. Cioè, non andrei oltre la trilogia perché sarebbe un po' eccessivo, magari, anche se potrebbe essere interessante. Per dire, per Colazioni Salate, è meglio chiamarsi Elvira, che è lo spin-off di Colazioni Salate, che sono tutte e due qui dentro. Ho scritto già lo spin-off del l'unico personaggio che mancava da eviscerare, che è lui, il personaggio maschile, che poi è un mio, diciamo, alter ego, perché ha problemi di patente e ha problemi di amore, cavoli vari, insomma, ha tanti problemi, e quindi gli ho dedicato un racconto che forse un giorno uscirà, non lo so, però anche quella è una trilogia, diciamo. Ma non è, cioè, allora, ho detto, vabbè, il 3 è il numero perfetto, no? Facciamo, no? Sì. Però non è detto che magari poi in seguito qualcosa, non lo so, però mi sta piacendo questa cosa, perché comunque devo dire che è anche un escamotaggio abbastanza moderno, insomma, le serie, escono gli spin-off delle serie, sì, no? Personaggi paralleli, cose, abbastanza interessante come discorso. Sì, pure perché, vabbè, mi viene da dire quasi una malignità, così se comprano il secondo libro, perché poi... Ma magari, ma magari... Come fai? Certo. Anche perché poi appunto, come dicevamo prima, il racconto, diciamo, è tutto nel finale, nel senso, nelle ultime quattro righe te in qualche maniera sveli, o comunque dai il senso, in questo qui non sveli niente, appunto. No, questo è... Beh, sì, a me era piaciuto abbastanza, in particolare, particolarmente perché effettivamente invece, cioè, è il classico racconto adolescenziale, certo, e la classica sensazione, beh, di sì, quando uno c'ha la vita davanti, beh, le cose che fai anche se non te vado a falle, per non andare a scuola, per tutto faresti pure per non andare a scuola, ecco, noi andavamo a donare sangue, una cosa che poi a me mi è rimasta, pensa, poi ancora dono sangue. Avresti mai pensato quando c'avevi, sì, sì, perché questo racconto è vecchio, dico, che alla fine avresti pubblicato su... Beh, io scrivevo già a quell'età, sì, sì, sì, età, no, no, ho smesso, certo, dopo, certo, ho smesso dopo, sì, però quando avresti pubblicato i cazzi tuoi quando c'era quell'età. Non lo so, probabilmente, ma cioè, questo tu dai per scontato che quello che ho letto è vero, però non tutti lo danno per scontato, quindi, certo, è un racconto e finisce la storia, cioè il pischello de o la signora di Mestre, oppure la casa lì che magari non si sa come c'è, cioè, certo, cioè, che gliene frega se è vero o no, ma legge, passa con l'oretta. E invece, che i personaggi che tratteggi, che comunque sono appunto reali, più o meno reali. Beh, allora, il discorso della forbice temporale è un po' quello il gap che devo superare, cioè, nel senso, alcuni personaggi di 20 anni fa, alcuni me li sono proprio persi, certo, e alcune cose vere che sono successe 20 anni fa, magari andrebbero un attimo, no, limate in qualche modo, ma anche il discorso di un racconto scritto 20 anni prima, ce l'hai, un racconto sta lì, magari non gli metti le mani perché non ce le vuoi mettere le mani, però adesso magari farei un altro tipo di... ci lavorerei un po' di più sul personaggio, diciamo, ma non troppo, non troppo, perché comunque sia una base reale o comunque concreta, è quello l'importante, è una cosa concreta in cui l'altro ci si può riconoscere, che sennò non ti arriva niente, cioè, se mi smettessi a scrivere oggi io un libro storico, ma che cazzo, a chi arriva? Cioè, io parlo delle cose che ho vissuto, cioè, parlo della realtà, cioè, poi un tipo di realtà, cioè un tipo di vissuto, e va a finire là dentro. Quindi passiamo avanti. Sì, ma mettiamo una canzone? Mettiamo una canzone, che dici? E sì, poi continuiamo? Certo, a proposito. Dai, sì, sì, sì, no, perché dai, l'avevamo detto. Allora, comunque sì, continuiamo. No, no, no, con no, calma. Hai ragione, c'eravamo proprio dimenticati, perché invece qui ci abbiamo un'altra versione tua, che Lo spin-off dei è lo spin-off del palcoscenico, ma anche un po' una continuazione invece del racconto che fai, sì, o delle poesie che scrivi, perché vai a reinterpretare tante cover, pure ci stanno in mezzo, sì, e così con un progetto nuovo che si chiama Morte. La Morte, che uno direbbe la morte adesso mi gratta, no, in realtà è L'Apostrofo, a Morte, in cui c'è una crasi tra l'amore e la morte, che sono un po' quelle due cose che ci tengono vivi, no? L'amore ci tiene vivi in vita, la morte è quando arriva, dice cazzo, allora prima ho vissuto, no? Quindi sono due cose molto grosse, due entità molto grosse che ci spingono avanti, che in qualche modo ci portano avanti: la voglia di amare e di essere amati e la paura della morte, no? Nasce questo gruppo da due mesi, e nasce proprio da una conversazione tra me e un amico. Ma io ho una cifra di basi, io ho una cifra di racconti, vabbè, vediamo un attimo. E poi le cose hanno preso una piega a loro e probabilmente evolveranno, perché è un gruppo che non è definito, diciamo, sì, non ha limiti, non ha proprio nessun limite, quindi probabilmente evolverà in qualcosa che magari è diverso. Infatti ti ho mandato i primi demo, insomma, non sono neanche di ottima qualità, però cioè, mi faceva piacere per capire, insomma, sì, c'è un connubio tra, certo, alcuni, anzi un paio di racconti sono proprio questi di Irrequiete in musica, diciamo, però abbiamo fatto anche canzoni un po' più, cioè, originali, diciamo, senza mettere mani allo scritto. Va bene, quindi io comincerei invece con forse quella più, sì, che è una cover di un'altra grande vecchia passione, che è quella Rinegazione. Ah, ok. Andrei, sì, con Tutti Morti, facciamo pure con Tutti Pazzi. Tutti Pazzi. Tutti Pazzi. No, certo. Abbiamo certo, i sì, morti, sì, certo. La morte, raga. No, però a un certo punto c'è. Beh, testo, sì, tutti pazzi, tutti morti. Beh, non potevamo non omaggiare Negazione. E invece nella versione La Morte.

sarei come adesso, brutto come adesso, ma comunque sempre con quella testa. Quindi probabilmente non è questione di offendere, è questione di calarsi proprio in però senza senza vincoli, senza delimitazioni, cioè sentirsi libero di scrivere anche pensando, cioè non sono io, sono io donna. È meraviglioso. Perché sono io un altro, forse, tutto sommato. È meraviglioso, però pensi nel senso, è veramente, guarda, l'ho detto. Quanto la conoscenza delle ragazze e delle donne ti ha aiutato in questo? Cioè, quanta intimità ci deve stare per poter rubare, diciamo, un po' di intimità, un po' del pensiero? Diciamo che è un mondo che conosco, punto. Oddio, cioè tu vuoi dire quanto del tuo vissuto poi fa sì che magari perché puoi fare finta, però puoi fare finta in base, no, a delle conoscenze che hai, non tutti hanno un vissuto come quello che ho io, quindi cioè ci stanno coppie, no, cioè, bellissime o bruttissime, migliori, peggiori, diverse, cioè, quindi coppie nel senso che io da uomo mi avvicino a una coppia, conosco l'altra donna, la donna, quindi no, però quando prendi una droga che ti fa uscire da te stesso e quindi c'ha una componente che è magnifica e magari una componente che dici oddio, forse non dovrei, forse, però siccome io non è che mi sono mai fatto troppi problemi a pensarla come la penso, a vivere come voglio vivere o a comunque essere me stesso sempre, dovunque e comunque. Cioè, se io descrivo una donna in quel modo, probabilmente quella donna doveva essere in quel modo. O comunque io donna sarei stato in quel modo, mi sarei comportato così. E la reazione del pubblico femminile quando hanno letto? Onestamente, mi è piaciuta, diciamo, ci sono sentite. Hanno detto no, questo è un maschio che scrive come se fosse una donna, cioè hanno sgamato il trucco. Guarda, ti dico una cosa, più che dai racconti, dal libro di poesie, ho dei feedback nel mondo femminile stupendi. In cui mi ha detto sto libro l'ho amato tanto, ma è veramente un libro che ti uccide. E io ho detto vabbè, alzo le mani, la poesia è proprio quello, è amore e morte, quindi che è la vita vera, no? Cioè, quindi la poesia intesa come vita reale. E qui c'è amiche, tra virgolette, insomma, che mi mandavano le foto delle orecchie nelle pagine, praticamente quasi tutte le poesie erano orecchiate, segnalate, sottolineate. E questo libro l'ho amato tanto, ma mi ha fatto tanto male. E ben venga, cazzo. Pensa se lo leggevi o mettevi là, ma vaffanculo. Che cazzo, ti ha fatto male, ben venga. Una reazione, vuol dire che. Qualcosa t'ha lasciato. Certo. E probabilmente ma adesso nell'immediato, questo è uscito un mese fa, due mesi fa, nell'immediato non c'ho dei feedback diretti, però insomma li aspettiamo. Sì, li aspettiamo. E comunque sta andando abbastanza bene, quindi alzo le mani, lo dice il mio editore, quindi abbastanza bene, non voglio quantificare, non me ne frega manco niente, insomma. Però vabbè, poi insomma l'opera di pubblicare è fatta, quindi il grosso è fatto, insomma. Poi siamo sicuri che appunto poi come dici te, cioè non è che è un lavoro o sei sarebbe bellissimo. Esatto, però ti svegli la mattina e devi solo scrivere, esatto. Sarebbe bello. Però invece 20 anni di fatica ci vuole tempo. Pure insomma, di più. Ma poi per esempio anche il discorso che hai fatto prima e terza persona mi piace tantissimo, perché sto cercando di uscire in qualche modo e probabilmente ancora non sono in grado, ma sto cercando di uscire da i cliché della scrittura. Sì. Classica, insomma, del sperimentare ancora nuove strade. Beh, insomma. Sì. O se non nuove, perché pure lì ormai tutto è stato fatto. Sto a ruota proprio seria, sulla digressione interiore, su un flusso di coscienza interiore, cioè 3-4 pagine solo di te che parli con te stesso, de, spazi tra nomenclature, location, vissuto, non vissuto, cercare di analizzare proprio i dettagli del pensiero, sì, di come scendere funziona un pochino in profondità. Cioè, sto cercando di fare quello nelle... perché poi c'è pure questa dissonanza, cioè questa discrepanza, che il pensiero non so le parole. Le parole sono la traduzione del pensiero. Poi noi pensiamo a parole, sì, forse, ma non solo. Insomma, vabbè. Beh, ma possiamo dire anche che le parole sono solo una convenzione. Certo. Cioè, proprio pura e semplice convenzione in cui una parola qua significa una cosa, dall'altra parte del mondo non significa niente. Non è niente, è solo un suono. Quindi. Boh. È anche vero il contrario, che ci stanno tante parole, la mamma, cioè le parole base, insomma, queste qui culturali. Ma sono sempre convenzioni. Quindi... Sì, però c'hanno una, è linguistica, certo, c'hanno un significato, una storia, c'hanno una storia, sì. È comune in tutto il mondo perché nascono come parole che sono semplicemente dei versi che noi facciamo e che poi nelle diverse lingue diventano la stessa parola. Vabbè, attendendo quindi. Allora, se tu metti un'altra canzone, io vado a prendere la birra. Allora, se mentre no, io metto leggo. No, mettiamo un'altra canzone, okay. Tu ti vai a prendere la birra e poi attacchi a leggere. Perfetto. Vai. Allora, 23:58, Radio Onda Rossa, Ciccio Stefano Tarquini legge, va a trarre dei racconti da Irrequiete. Questo è Bagaglio Imperfetto ed è bella e seguita bene con attenzione, è a effetto. Camilla scrive canzoni da quando è ragazzina e vedeva nelle ginocchia sbucciate una divisione, non altro, una prospettiva vagante, disillusa, il disegno di un potere non suo. Passava l'estate nella casa dei nonni, un piccolo casolare che da fuori pareva abbandonato e dentro era lasciato un po' a se stesso, incondizionatamente, tutto su di un piano, come si faceva un tempo, tanta campagna e tanta noia, gioia a volte. Pregi. Amava il modo in cui la luce scandiva le ore della mattina, entrando dai buchi nel muro e rimbalzando sui piatti e bicchieri di vetro nella credenza del salone. Diventava un gioco, fino a quale altezza sarebbe stata capace di arrivare, distendendosi il più possibile come fanno i cani e i gatti appena svegli. Difetti. Non le era mai piaciuto l'odore che aveva tutto quanto in quella casa, nonostante le finestre spalancate durante la mattina, i tappeti sbattuti, le lenzuola pulite cambiate tutte le settimane. Quell'odore di chiuso, di morte, di fantasmi, non se ne andava mai e Camilla aveva imparato a conviverci. Fantasmi, mai pervenuti fuori di lei, ma dentro erano una costante. Ci combatteva da quando era nata. Le facce dei morti nelle cornici a giorno non aiutavano di certo. Sapeva le storie di ognuno di loro, di come erano vissuti e come erano morti. Non c'era ragione per una loro comparsata. Incubi, sempre lo stesso. Uno scuolabus sempre senza conducente che cade in un fosso, fa qualche caprela su se stesso, poi la notte lo inghiotte, alba, ambulanze, genitori, poi niente, assoluto silenzio. Compromessi. Aiutare la nonna a fare la marmellata di more. Lei in cambio le avrebbe permesso di mangiarla. Donna Lucia era una tipa tosta con una memoria di ferro, le nocche ancora più dure. Se dovevi mangiare 30 rigatoni, nel piatto trovavi 30 rigatoni, mai 31, mai 29. Quando le faceva una carezza, le lasciava i solchi sulle guance. Non aveva nessuna parte morbida da mangiare, nessun gheriglio, e probabilmente le poche cose in più che le permetteva di fare liberamente avevano portato uno sconvolgimento assurdo nel regime continuo in cui viveva. Donna Lucia aveva solo un hobby, il coro della chiesa. Ogni pomeriggio se ne stava in fila come una formica, tutta vestita di nero pece, assieme alle sue amiche datate. Oltrepassavano i campi di papaveri come una colata di lava e andavano a farsi la loro cantata. Tutto ciò la rimetteva in pace con se stessa e con Dio. Nonno Arturo aveva lavorato ben oltre la pensione. Da piccolo aveva rischiato di diventare prete perché non aveva un soldo bucato e i suoi l'avevano parcheggiato in un seminario, una bocca in meno da sfamare. Ogni tanto si facevano grasse risate mentre sfogliavano le foto di quel periodo. Quella più simpatica era sicuramente una in cui posava con i suoi colleghi di vocazione su un campo da calcio di Pozzolana, tutti vestiti da preti ma con gli scarpini da calcio, usanze. Tra l'altro era talmente magro che quella tonaca da novizio gli stava 3 volte. Poi si era rotti i coglioni di quella vita e, non potendo ritornare a casa senza un lavoro, fu assunto dal fornaio del paese, così imparò a panificare. Ogni notte aveva la sveglia alle 3. Andava in bicicletta fino al paese, e anche quando pioveva, eppure a dicembre. Nonno Arturo non aveva mai perso un giorno di lavoro, a volte ne andava fiero, a volte dopo 2 bicchieri scherzava mezzo sbronzo sul fatto che sarebbe stato meglio fare il prete, poca figa, ma bella vita. E poi vuoi mettere a sapere i segreti di tutti? Camilla non sapeva neanche cosa fosse un segreto. Riempiva le sue canzoni di cose irreali, di sensazioni, di scoperte, di quando toccandosi la prima volta aveva provato piacere, di quando si metteva lo svalto di nascosto pur non potendo uscire. Lo smalto l'aveva comprato da Luca, suo cugino di secondo grado. Le faceva dei piccoli favori, tipo quello, in cambio di baci. Quando erano più piccoli bastavano quelli sulla guancia, ma crescendo le zone da baciare erano cambiate. Non che la cosa le dispiacesse, ma i loro scambi dovevano rimanere segreti, perché i nonni non l'avrebbero presa bene. Diversa scuola di pensiero. L'unica cosa che Camilla pretendeva però era il doversi lavare prima accuratamente. Tempo fa, infatti, si era preso una brutta infezione di cui però non poteva parlare con nessuno. Succhiare il cazzo di suo cugino in cambio di piccoli favori, più o meno leciti, la faceva sentire come Julia Roberts in Pretty Woman, libera. Nella sua ultima canzone ci voleva ficcare dentro la cosa più curiosa che le era capita da quell'estate. Non era stato facile convincere nonna Lucia a portarla fuori per la raccolta delle more, ma in qualche modo ce l'aveva fatta, strategie. Solo che in quell'occasione era caduta, rimanendo impigliata tra i rovi, suscitando sia la preoccupazione che l'ilarità di tutti i presenti. Dopo un'ora tutto il paese già sapeva che Camilla, per poco, se ne stava andando al creatore, dissanguata in mezzo alla morte. Alle more, scusa, l'aveva scampata. Per tutta la settimana successiva pregò i nonni di non dire nulla ai suoi, che di certo non l'avrebbero presa bene. Quel momento di pericolo era forse l'unico che si era concessa da quando era nata. Non le era ancora chiaro, ogni giorno di fronte allo specchio, il motivo per cui aveva dovuto vivere una vita intera senza le gambe. Cosa resta da fare? salutando le mie cose più buone e sedermi sui divani degli altri e sperare che cominci il rumore. Ritorniamo in onda a mezzanotte e 10, quindi possiamo così dispensare Ciccio, che comunque non fa lo scrittore di professione, ahimè. E comunque diciamo la stozza della guadagnata tutte le mattine, e forse proprio da questo vissuto qua. Poi c'è tanto altro, tanti altri frammenti, pezzetti di vita, le mattine appunto passate ad accompagnare il collega ad andare a lavorare, tanti pezzetti, le sbronze o appunto queste storie così improvvisate, fortuite, eccetera. E niente, non ci resta che augurarvi di leggere, di aver modo di avere un libro che si legge insomma in qualche ora, non c'è bisogno di... Poi i racconti hanno questo pregio, no? Rispetto a che finisci e poi riprendi quando vuoi la lettura, insomma, quando sei dell'umore giusto, perché poi letta la prima storia penso che si capisce insomma qual è il... Che poi, il mood. Sì, qual è il mood e qual è l'ambito, la sensazione che si prova, ecco, anche qui, no? Una volta il gusto che lascio in bocca la lettura di una storia. Lasciatevi prendere, non giudicate, insomma, è quello che dicevamo, è il linguaggio della strada. Forse questa è la... Ma guarda, non sarebbe neanche un problema. A me mi hanno giudicato sempre, in qualsiasi... Anche quelli che io non... Giudicate allora. Sì, giudicate, perché tanto... No, io non... Cioè, a volte faccio uno sforzo a non giudicare chi mi giudica, però non è un problema, anzi, va benissimo così. L'ultima cosa che volevo dire è una cosa che mi è venuta in mente adesso. Senza vissuto non c'è scrittura, mai. E quindi è giusto che ci abbia la sveglia ai 5 per andare a lavorare. Attaccare le 6 per sentisse che potremmo farci un'altra trasmissione sull'arte, per sentisse dire cose, certo. Per dire, oh, ieri ho fatto questo, ieri ho fatto quell'altro, a me viene uno spunto, magari il giorno dopo diventa racconto, certo. che è universalizzato, sì, penso poi... anche alla ripetitività, no, dei giorni, in cui uno comunque deve trovare, cioè, il discorso è quello. Io lo ripeterò sempre: se tu stai depresso dentro casa, è difficile. Se tu vivi, poi scrivi. E quindi è un cerchio, no? Che poi la scrittura ti riporta, ti ritira sul murale. Perché? Perché c'è un vissuto, bello o brutto, comunque sei vivo. Sei vivo e scrivi. Io la vedo così. Poi sbaglierò, non lo so, non me ne frega un cazzo, tanto io la vedo così. Vabbè, una sorta comunque di neorealismo e... Sì, ma sicuramente. O realismo e basta, insomma, sì. Senza neo. Quindi va bene, dai, dove trovare il libro per chi fosse rimasto incuriosito? Sicuramente sullo shop della casa editrice, che si chiama Another Coffee Stories, e poi sui vari siti dove si comprano le cose che non diciamo, ma si sanno. E versione cartacea e versione PDF o comunque no, in teoria è che versione cartacea, che però c'hai una copia sola che è pure scarabocchiata dei prossimi, sì, perché vabbè. ci sto lavorando però giuro che te la regalo in qualche modo, avrai la tua copia cartacea quando sarà magari il volume 2, dai. Sì va bene, dai, ti ringraziamo. No, ti ringrazio a te e saluto tutti e tutte. Guarda, l'oretta che sto qua è un'ora di libertà. A parte che è mai un'ora, perché quasi due. È un'ora di libertà, proprio sto tranquillo, è bellissimo, cioè è uno spazietto che ogni tanto fa bene alla salute. Sì, sì, a me dire, sì, a me. Non so a te. Non lo so, no, bene. Qualche incazzatura ce l'ho avuta, però insomma, non con te, ecco, a me sì. Non con voi. Va bene, dai, allora. Radio Onderossa fa bene. è il contributo demiurgico della radio. Bravo, è vero, è la parola esatta, è un po' una catarsi, cioè. Comunque sia, vieni e te sfoghi in qualche modo. Va bene, dai. Allora, niente, ci risentiamo presto da queste parti, sì. Anche perché, allora, palcoscenico, abbiamo detto entro la fine dell'anno separati. Sì, palcoscenico al Neon vivi, non siamo morti, sì. Quindi tranquillo. Ci vuole il tempo che ci vuole, gli impegni sono tanti. Un po' ci vuole, sì, quello sì. Però, insomma, prima o poi arriverà. Nascite, lavori, quindi... Esatto. La morte è un progetto tutto da sviluppare. Continua, la morte continua, ritorna, continua, cresce. Il volume 2 l'attendiamo, il volume 3 quasi è, detto, è in lavorazione. Ci sto lavorando, dai. È in lavorazione, quindi a ricicci un'altra volta, diciamo, proprio usando sì. un doppio... Non mi tolgo dalle palle facilmente. No. Sì, vabbè, magari per qualche anno, ogni tanto poi ritorni e non c'è niente da fare, poi dopo diventi ospite fisso. Va bene, dai, ti ringraziamo e a presto, e noi continuiamo ancora 10 minuti e poi ce ne andiamo a nanna pure noi, andiamo a nanna pure ascoltatrici e ascoltatori. Dai. Alla prossima. dress sexy at my funeral, my good wife. Minuti dopo la mezzanotte, 25 o'clock va a concludere. Non concludiamo però prima, a parte prima dei saluti finali, ma prima di aver mandato, di aver consumato un rito, come si dice. Well, it's strange the way. E certo, quando sono nati i B38 Punk, la prima copia dal primo disco viene recapitata a Radio Onda Rossa per la prima diretta. Non so, la prima trasmissione in diretta, insomma, del disco stesso. Non so se quest'anno è stata assolutamente rispettata la cosa, senz'altro abbiamo presentato il disco ultimo di B38 Punk. Quello del trentennale. I have taken you for a ride. A fine settembre, come di competenza, cioè al compleanno stesso, sapete, poi loro sono abbastanza feticisti per queste cose, quindi c'è una precisione. Death games inside. Maniacale. E noi siamo qui a rispettare questa ritualità. Oh, I know why. Oh, I know. Perché adesso c'è il disco, quello di plastica, in versione CD. La quinta traccia è Memo, quindi una riregistrazione della traccia originale, formazione originale dei B38 Punk, quinta traccia per questo Il Mondo Nuovo. E poi via via andremo a trasmettere tutto il disco, comunque già ne avete in parte conoscenza, dai. no longer. No longer? What do you mean? Leave. I'm not leaving without Johnny. As you wish. Dopo la mezzanotte, 25 o'clock. E noi pian pianino ce ne andiamo. Ringraziamo ancora Ciccio per la presentazione e la lettura dei brani dalla sua ultima pubblicazione, Il Requiete. Come sapete benissimo, la programmazione della radio per quanto riguarda la serata del mercoledì / giovedì notte finisce con queste note, ovvero con le note di Under Communist Moon. Però noi vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata. La scorsa settimana avevamo detto Zara, che era il vecchio nome della compagna automatica. Adesso si chiama Sonata, già da un bel po' di anni. Che che vi terrà compagnia con le sue selezioni musicali e le sue repliche. Riprende alle 8 del giovedì mattina con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, i redazionali della mattina. Poi una piccola pausa intorno all'ora di pranzo e poi si riprende alle 14. Dalle 14 alle 15 con tutta scena cinema, alle 16 Attica Blues oltre a Black Music, alle 17 la lunga puntata di La Schiena del Sol, alle 20:15 a Tabula Rasa la trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa, alle 22 i cuginetti di Apostasia chiudono il palinsesto del giovedì. Il nostro saluto va a tutti e tutte coloro costretti a condizione di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti, decreti amministrativi che ci costringono a fare e non fare. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, dai, bella così, a mercoledì prossimo. No. dreams.